Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi episodi di persone investite che sono rimaste ferite a Roma, Padova, Ivrea e vicino a Torino, dove un ragazzino di 11 anni ha avuto un incidente. Una legge che regola l'uso dei monopattini c'è dal 1 marzo, è stata confermata l'equiparazione alle biciclette. Il monopattino elettrico può essere usato solo dai 14 anni in su e sulle strade urbane e su quelle extraurbane la circolazione è consentita solo in presenza di piste ciclabili. Per i trasgressori ci sono sanzioni e multe fino a 800 euro se non si rispettano le regole e se il mezzo è fuori legge. È indubbio che è cambiato un po' il colpo d'occhio in molte nostre città italiane, io lo dico a Roma. La sera a Roma è notevolmente cambiata la viabilità. Perché? Perché ci sono i monopattini. Il monopattino che nasce in epoca di immediato post-Covid, di uscita dal lockdown come mezzo alternativo per snellire il traffico, per rendere più facile la viabilità, per dare ai cittadini modo di muoversi velocemente in delle città che si stavano gradualmente riprendendo l'intorpidimento della totale assenza di cittadini, sono diventati un piacevole trastullo per le generazioni più giovani, un mezzo di uso comune per molte persone che nel corso della giornata le vediamo transitare con i monopattini. Diciamo che i problemi nascono sul fare della serata, almeno secondo la mia osservazione, poi magari riuscite voi che potete chiamare all'800240024 alleggerirmi dal mio pregiudizio e magari darmi, che ne so, letture diverse, più edificanti, meno drastiche. Ma io sono seriamente infastidito dal continuo passare sui marciapiedi di frotte di ragazzi che in due sul monopattino passano attraverso i tavolini dei ristoranti, passano contromano in strade che non sempre sono abbastanza illuminate, anche in strade a scorrimento veloce. Leggo la notizia proprio di due giorni fa che un ragazzo col monopattino elettrico l'hanno beccato dopo le 10 di sera sulla A24 Roma-L'Aquila, che è un'autostrada in sé che è abbastanza pericolosa da percorrere con un mezzo che non vada a una velocità sufficiente. Di notte andarci con una smart già da qualche preoccupazione, ma andarci con il monopattino vuol dire essere suicidi. Di letture del genere ne arrivano parecchie, arrivano anche notizie di incidenti. Molti si lamentano del fatto che da quello che doveva essere un mezzo di alleggerimento della viabilità urbana è diventato un mezzo sul quale non ci sono regole, c'è una totale deregulation, lo può usare chiunque in qualunque momento, in qualunque circostanza. Immaginate, questa è la mia esperienza due sere fa, stare a un tavolino in una pizzeria con il figlio in un marciapiede nemmeno troppo stretto dalle parti delle mura vaticane e vedere sfrecciare ogni 30 secondi i ragazzini con i monopattini. O almeno non è un disprezzo generazionale verso i più giovani. Ma evidentemente qualcosa probabilmente secondo me va fatto con i monopattini. 800240024, aspetto il vostro punto di vista e la vostra testimonianza. Installazione di un innalzatore di tensione sempre in corrente continua può regolare la tensione desiderata e anche eventualmente la corrente. Ed è questo. Quindi io attraverso questi due tasti posso regolare la tensione. Evidentemente voi non avete provato il monopattino come era inizialmente, però più di 20 km orari non faceva. Adesso più o meno almeno i 40 dovrebbe fare. Questa è un'altra vicenda di cui abbiamo noi parlato. La possibilità di modificarlo diventa un mezzo che può andare anche oltre i 40 km orari, quindi è un mezzo che sfreccia veloce. è diventata anche una consuetudine vedere la nuova postura di una nuova forma di persona che transa lungo le nostre strade urbane. Eravamo abituati a vedere il motociclista nelle sue varie accezioni, lo scooterista, l'automobilista con la city car, l'automobilista con il SUV, l'automobilista spocchioso, e adesso abituati a vedere anche la persona dritta, verticale, con lo zainetto, con il suo monopattino che sfreccia velocissimo, molto spesso con un passeggero dietro di lui. Enrico, ingegnere Enrico Pagliari, buongiorno. Buongiorno. Nostro ospite consueto, il coordinatore dell'area tecnica dell'ACI. Vorrei sapere se la nostra è soltanto una visione pregiudiziale data probabilmente da un condizionamento generazionale o in effetti i monopattini cominciano a uscire fuori da quella sorta di utopia che li aveva voluti nelle nostre strade, cioè di alleggerire il traffico. Stanno cominciando a creare problemi. Voi avete dei numeri, degli indicatori, come ACI intendo? Numeri non li abbiamo, però abbiamo delle segnalazioni forti su il maluso di questo mezzo, che sarebbe un utile strumento per muoversi nelle città, per fare il cosiddetto ultimo miglio, no? Abbandono la metropolitana o il bus e poi dove devo arrivare non ci arriva nessun mezzo, faccio quel chilometro, massimo 2 chilometri per arrivare dove devo arrivare con questo mezzo. In realtà, come un po' è uscito fuori dalla vostra analisi, purtroppo viene preso più come giocattolo, ecco, uso questo termine perché a me riviene in mente quando ero bambino, io avevo un monopattino, però era a forza fisica, dovevo spingere con il piede, era di legno. Certo, quelli a pedagna, come si diceva, così andavano, esatto, certo, chiaro, quello era il monopattino. Ecco, avete già sottolineato un discorso che ci è arrivato per esempio dai laboratori di EuronCap che fanno crescere le auto, hanno provato anche questi strumenti che si acquistano liberamente anche su Amazon, sono arrivati a 70 all'ora, taroccandoli, passatemi il termine, un po' come diceva. 70 all'ora con un mezzo che in realtà non ha frenata, non ha tenuta, è un giocattolo. Dovrebbe stare sotto i 25 km orari, non si dovrebbe superare quella ma velocità. Infatti, come si vedono andare veloci, si vedono anche andare con due persone, quindi per portarsi il peso di due persone in qualche maniera sul motore qualcosa hanno fatto, se no starebbe fermo. Certo. Ecco, poi bisognerebbe andare da soli, come dice l'attuale normativa, da 14 a 18 anni portare il casco, sopra 18 no, ecco, questa è un'altra stranezza della norma che non mi trova in accordo, perché è come se dopo 18 anni puoi romperti la testa, mentre fino a 18 devi stare attento. Sentiamo un attimo Luigi, primo ascoltatore, 800 24 0024, vorrei se possibile testimonianze da varie città d'Italia dove circolano i monopattini. Può essere in alcuni posti, alcune latitudini ci sia un maggior livello di civilizzazione, so che a Milano ci sono delle scuole che danno istruzioni di come gestire un monopattino, forse probabilmente è stata un'immissione veloce e ci vorrebbe un passaggio di consegne rispetto a chi prende per la prima volta in mano un monopattino. Ho visto ragazzini che imparavano a usarlo nei giardinetti di Piazza Cavour, lo avevano affittato, erano incapaci ad andarci, ragazzine soprattutto urlando, strillando, starnazzando, hanno imparato, hanno fatto 10 minuti di scuola guida nei giardinetti di notte di Viale Mazzini, di Piazza Cavour, e poi sono partiti. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, volevo raccontare la mia testimonianza. Io uso il monopattino da 15 anni. Elettrico, quelli che girano adesso o un altro modello? Sì, l'ho comprato 15 anni fa dalla California e ci vado tutti i giorni a lavoro praticamente, mi fa risparmiare mezz'ora al giorno. Non ho mai fatto. Quindi lo usa, diciamo, nell'accezione, nella destinazione d'uso classica, dovrebbe servire tirarlo fuori dal cofano della macchina, parcheggiarla fuori, diciamo, dalla cerchia urbana cittadina di maggior congestione e avviarsi al lavoro tranquillamente, ripiegarlo, metterselo sotto la scrivania senza dar fastidio a nessuno. Questa è l'origine del monopattino. Faccio la mattina al park and ride, tiro fuori il monopattino e ci arrivo praticamente in niente. Inoltre, da quando comunque l'ho comprato, ci ho sempre camminato tranquillamente, il limite del monopattino è di 25 km orari, tante volte ci sono bici che, cioè uno in bici ci va molto più veloce. mi guardavano prima come un alieno per strada, però fondamentalmente bisogna solo capirci camminare. Quindi secondo lei cos'è? È un'informazione non sufficientemente capillare su come vada usato il monopattino, o che una volta che ce l'hai a disposizione di sera la tentazione è tanta, diciamo la verità, la tentazione è salirci su e partire e andarsene in giro per la città è tanta, e poi nessuno mi sembra che abbozzi alcun tentativo, azione punitivo-repressiva nei confronti di questi. Le risulta, ingegnere Pagliari, che ci siano, diciamo, vigili, polizia stradale, che la sera sia dedicata particolarmente al controllo del monopattino usato in maniera impropria? Bah, non mi risulta che ci sia un controllo assiduo, ma più che altro c'è anche un problema tecnico. Questi veicoli, ormai velocibili a tutti gli effetti, come le biciclette, non hanno un identificativo, non hanno una targa, quindi è anche difficile poi intervenire e fare la multa, cioè devi veramente fermarlo e contestargli la sanzione di quello che non si poteva fare sostanzialmente. Quindi probabilmente sarà opportuno, così come le biciclette, visto il diffondersi ormai nelle nostre città sia le biciclette sia questi monopattini, dobbiamo inventarci qualcosa per poterli poi identificare, per indirizzare bene l'eventuale sanzione. Questo dovranno aspetto. Cominciare a essere dei mezzi che rispondono comunque a un criterio di identificazione e seguire le normative. Anche quello della formazione che diceva prima, cioè dobbiamo insegnare alcune regole, non dico che ci vorrà il patentino, però far capire come si deve circolare sulle strade urbane, dove c'è anche il tir, c'è anche il bus, c'è anche l'auto, insomma ci sono delle regole che vanno rispettate. Ingegner Pagliari, mi lasci passare il termine, nessuno è tanto coglione da avviarsi lungo il raccordo anulare di Roma sulla Roma L'Aquila. E non credo che servano strumenti di formazione specifiche per far capire che è un suicidio, visto la foto. Cioè lei ce l'ha presente cos'è la Roma L'Aquila, soprattutto la sera, che è una strada che i mezzi vanno veloci, passano gli autotreni, i camion, e questo pian piano si vede sotto la galleria col suo monopattino che se ne va, non so, a lunghezza, non so dove starà andando, tornava al paesello col monopattino. Mi sembra una cosa talmente folle che accadano cose del genere, non lo so. Che gli vuoi dire a quel? Cioè, non c'è nulla da dirgli, lascia silenziosi. Sentiamo Raffaele, un secondo solo, ingegnere. Raffaele che è autista di autobus, quindi evidentemente ha un punto di vista sopraelevato rispetto al nostro. Raffaele, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io sono un autista di autobus in una città come Padova. E nulla, vi posso portare la mia testimonianza, che è un fenomeno che veramente diciamo sta degenerando. Ogni giorno ci sono sorpassi da sinistra e soprattutto anche destra, loro invadono, diciamo, la corsia preferenziale per gli autobus a due persone, anche a volte sopra, soprattutto anche persone adulte che ti passano dalla destra. È un fenomeno che comunque forse si sta sottovalutando. Tante volte ci sono state, diciamo, anche qualche piccolo incidente in città. Però diciamo che ancora non ci sono stati quegli incidenti clamorosi che fanno sì che l'opinione pubblica s'accorga che c'è un problema. Però diciamo il disagio per chi guida avvertibile, penso che vada oltre il pregiudizio tantissimo contro i poveri ragazzi che hanno diritto di divertirsi. Lei guida l'autobus e quindi ha una responsabilità molto grossa, e se è difficile per noi automobilisti prevedere quando ti escono da destra, da sinistra, ti passano davanti, immagino che per un autobus è una cosa terribile vedersi un monopattino che ti passa a destra magari quando devi aprire le portiere e far scendere le persone. Esatto. Spesso e volentieri ti sorpassano sempre dalla destra, cioè dalla parte destra dove comunque uno apre le portiere, e tante volte comunque invadono proprio la corsia riservata agli autobus e te li ritrovi davanti e tu con l'autobus dietro aspettare che magari in qualche modo per farli togliere o superarli sempre in sicurezza. però sentiamo Marco da Bergamo, così vediamo se riusciamo a avere dal nostro pubblico un punto di vista da varie città. Noi parliamo sempre solo di Roma e Milano, abbiamo sentito Padova, sentiamo da Bergamo. Marco, buongiorno, com'è la situazione? Sì, buongiorno. Allora, io volevo parlare dal punto di vista per due aspetti. Uno, sono un utente della strada e uno lavoro nelle forze dell'ordine e quindi dovrei far rispettare la normativa sui monopattini. Bergamo è diventato, diciamo, un teatro devastante dal punto di vista del monopattine, del non rispetto delle regole. Però in salita non vanno oltre una Bergamo Alta, non ci possono andare in salita. Ma non ci vanno non solo per la salita, ma anche perché chi ci abita comunque sono persone che contano di più di quelli della parte bassa, diciamo, battute a parte. Quindi c'è un controllo sociale più attento, non li vogliono. E fra l'altro in salita sarebbe un po' difficile, bella ripida. In salita fanno fatica e onestamente non si vedono nella parte alta, ma anche perché il centro storico è più piccolo e molto più comunque. Quindi girano intorno alla stazione, dalla stazione alla parte bassa. Dalla stazione è diventato pazzesco, perché poi la stazione di Bergamo, come Milano, se non ritrovo comunque di persone dedicate a vario tipo di attività. E non vorrei discriminare, però si nota che ogni tanto c'è intorno qualcosa di strano. Per generale, per nazione, proprio discrimino per tipo di attività che comunque è nota. C'è un bel giro di spaccio, diciamo, ecco, questo si vede, si nota. E Bergamo quasi totalmente vengono usate da queste persone, tant'è che mi sembra anche strano, col discorso comunque delle precauzioni per il coronavirus, fare questa condivisione di mezzi di trasporto è veramente un pochino, secondo me, contro normativa. Poi in più, diciamo, come forze di polizia, anche dal punto di vista dei controlli, io lavoro in una zona non centrale, un po' periferica, dove sono io non ne passano tanti. Però quindi lei ha notato che c'è questo uso da parte di chi compie attività illecite del monopattino, che è un mezzo che naturalmente può dare la facilità di muoversi in maniera più veloce e di eludere anche i controlli in maniera più veloce. Ci fermiamo soltanto un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. La facilità d'acquisto del mezzo, gli incentivi statali e un regolamento piuttosto lasco e poco chiaro hanno permesso la rapida diffusione del monopattino elettrico nel traffico cittadino dei centri urbani del nostro paese, complici poi l'ascesa a macchia d'olio di alcune agenzie di noleggio a breve termine. Ma proprio nelle grandi città la comparsa di questi ecologici quanto pratici mezzi ha fatto già insorgere il caos, sia dal punto di vista legislativo e normativo, che soprattutto sotto quello della sicurezza. In un paese in cui nel 2018 sono morti 612 pedoni e 219 ciclisti, nel 2020 è iniziata anche la triste statistica dei decessi dovuti a incidenti che hanno coinvolto i monopattini. L'11 giugno a Bologna un sessantenne alla guida di un monopattino ha perso la vita dopo essere stato urtato da un'automobile nel bel mezzo di una rotonda. Questo è di fatto il primo incidente mortale auto-monopattino nella storia della motorizzazione italiana. Stiamo parlando dei monopattini. Non voglio passare per un demonizzatore di monopattini, è un mezzo fantastico, un mezzo snello, un mezzo ecologico, un mezzo che impedirebbe la congestione dei centri cittadini per colpa di automobili, però naturalmente servono delle norme, servono delle regole, serve una formazione. Mi fanno notare giustamente sul canale Melog ha parlato Telegram che un cretino che va in autostrada di notte con il monopattino sarebbe un cretino comunque, anche se avesse un'automobile, anche se avesse un qualsiasi altro mezzo. Quindi questa è la fetta fisiologica di persone che non hanno proprio il senso della responsabilità quando si incamminano lungo una strada condivisa con altre persone. Sono le punte che non determinano un comportamento. Ringrazio innanzitutto Pietro Lacorte che mi manda in onda da Milano, Alessandro Chiappini che mi manda in onda da Roma, da un parcheggio di monopattini, come potete vedere in questo momento dalla diciamo versione video del programma Melog dal sito di Radio 24, ma ovunque, sta su YouTube, su Facebook, ormai siamo multipiattaforma. Sentiamo qualche ascoltatore. Ho chiesto oggi a chi mi ascolta di darmi delle testimonianze da varie città d'Italia. Ci stanno arrivando da varie città, come abbiamo chiesto, dei punti di vista sui monopattini. Andrea da Como, buongiorno. Ciao, Andrea, l'ascolto. Io abito in periferia di Como, non, Como, non da Como centro. Sì. E quindi ho il problema che mio figlio è panettiere, si alza la mattina alle 5 per fare il tirocinio e a quell'ora non ci sono autobus e quindi abbiamo dovuto trovare un mezzo perché possa fare quei 2 chilometri. Ma per lui è comodo usare il monopattino per fare questo tragitto? Eh sì, è l'unica alternativa. Ma qual è la controindicazione? Se non c'è problema, deve percorrere delle strade pericolose, di cosa si preoccupa lei? No, io non mi sto preoccupando. Cioè, io dico semplicemente che prima di tutto la legislazione deve essere pianificata, perché ad esempio il sellino un mese si può usare, il mese dopo non si può più usare. E come il sellino sul monopattino? Ma non si sta, scusi la mia ignoranza, non si sta in piedi sul monopattino? No, sul monopattino mio figlio ha un monopattino con un sellino. Quindi è un ciclomotore elettrico a tutti gli effetti? Sì, diventa come un ciclomotore, però in effetti è chiamato monopattino. Perché si può aspetti un attimo, no, perché non mi è molto chiara. Ingegnere Enrico Pagliari, ricordo, coordinatore tecnico dell'area tecnica dell'ACI. Di che mezzo stiamo parlando secondo lei? Il monopattino col sellino? Secondo me è di un mezzo un po' atipico, nel ibrido. Senso che è a metà strada tra monopattino e bicicletta. È una specie di biciclettina elettrica. Ecco, ma non c'è una deregolazione eccessiva? Perché assieme al monopattino sono tutti quegli altri strumenti, di tavolette a rotelle, c'è di tutto, ma alla fine ci vogliamo una regola. La norma parla di monopattini e dà anche le caratteristiche tecniche come devono essere fatte, quindi c'è una certa precisazione, però effettivamente è più sull'uso che bisognerebbe essere un po' più precisi. Ma io non ho capito, scusi, per capire, perché un ragazzo deve andare a fare la mattina al fornaio, quindi alzarsi la barra, male che vada prende una bicicletta o tutta più prende una motoretta o un motorino elettrico che ci sono? Perché bisogna andare a cercare queste cose strane? Ormai ci sono, esatto. Cioè questo qui, se viene fermato, sicuramente gli viene fatta una multa perché non può circolare, non rientrando nei veicoli ammessi alla circolazione, non può circolare, questo a mio avviso. Da quello che abbiamo sentito, e poi va un attimo approfondito. Ma sicuramente, da come l'ha descritto, non è né monopattino. Diciamo che da un certo punto in poi, causa Covid, è cominciata a imperare la fantasia sulla circolazione, l'omnia licet, sì. Tutto va bene. Cioè, io domani mi invento i pattini rotelle a batteria o a manovella, ci posso andare in giro, chi mi può dire niente, e ci posso andare dove voglio. No, Marina da Trieste, circolare, perché ci sono delle norme ben precise sui veicoli ammessi a circolare. I pattini a rotelle, scusi la domanda, a questo punto mi è venuto in mente, dove posso andare con i pattini a rotelle? In teoria, solo sulle piste ciclabili? Sulle aree pedonali, bisogna stare pure attenti a non far male alle altre persone, non si può andare sulla carreggiata, non si può andare con i pattini. Una volta ero pattinatore, mi è venuto tentazione in questo istante tirare fuori i miei pattini e andare così in giro con i pattini, però visto che tutti fanno tutto. Marina da Trieste, buongiorno, vediamo da Trieste. Buongiorno. Noi l'ascolto. Siamo una città in salita e quindi l'elettrificazione di questi mezzi è stata una cosa molto positiva. Ma infatti noi. Si dice com'è bello far l'amore da Trieste in giù, perché Trieste è in salita, si sa. Ma così, il purtroppo problema è che mancano le ciclabili. e di conseguenza noi, io sono un utente della bicicletta e abbiamo dei problemi per muoverci, anche se... Ma i monopattini sono arrivati anche a Trieste, in che maniera? Sicuramente, diciamo, assolutamente sì. Sono arrivati, però anche vanno quelli, soltanto perché... nelle strade in discesa in piano, perché in salita non credo più di tanto possano no, salire. Beh, quelli elettrici si riesce anche a percorrere una breve distanza in salita. Comunque anche le persone che riescono fisicamente, perché sono degli sportivi, a percorrere dei tratti in salita sono minacciati da tutta una serie di veicoli che non hanno lo spazio sufficiente, molto probabilmente. Sì, Marina, io capisco. Lei da appassionata di bicicletta lamenta che a Trieste non ci siano piste ciclabili, probabilmente o non fa parte, diciamo, delle urgenze delle amministrazioni locali, o la città è particolarmente impervia, è un po' difficile. Andrea da Modena. Ciao, Andrea, io ricordo l'esperienza di Modena, che comunque da poco ha la possibilità di noleggiare, diciamo, i monopattini che sono in diversi spot. Che è una città dove in bicicletta si circola bene, a Modena, mi sembra, una delle città dove si può andare in bicicletta tranquillamente. Si circola abbastanza bene, ovviamente dove è asfaltato, perché gran parte dell'area del centro storico di Modena è inciottolato, e quindi risulta un po' una giostra andarci con un monopattino con delle ruote molto piccole. Però io, ad esempio, ho visto all'estero, l'anno scorso ho avuto il piacere di visitare due grandi città come Lubiana e Vienna, che hanno una rete di piste ciclabili e di strade, infrastrutture dedicate al traffico, diciamo, di biciclette, di monopattini e tutti i mezzi, diciamo, lenti, che ci ha consentito, ad esempio, per uscire dall'utilizzo classico del mezzo, quindi ad esempio casa lavoro, automobile lavoro, di visitare una città in diversi punti, magari diversi musei, diversi punti di interesse, slegati dal mezzo pubblico, circolando tranquillamente. Tu mi stai parlando, Andrea, dell'altra faccia della luna, in cui ci sono dei percorsi per favorire anche la fruizione dei luoghi d'arte, dei posti di interesse della città, destinati ai monopattini, alle biciclette, ma è qualcosa che è ancora abbastanza difficile vedere alle nostre latitudini. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. Comunque, se lei me ne scrive, ce l'ho davanti, WhatsApp, lo vedo. 800240024, riprendiamo a scandagliare il nostro pubblico su i monopattini nelle loro città. Abbiamo già avuto alcune testimonianze a varie città d'Italia, abbiamo al telefono l'ingegnere Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica ACI. Quello che mi sembra di capire, però, ingegner Pagliari, che sarebbe un ottimo mezzo se rientrasse in un piano di razionalizzazione delle città mirato proprio a permettere e incentivare l'uso di questi mezzi, così diventa un intruso che entra a sproposito molte volte nei già difficili problemi di gestione del traffico urbano. Cosa servirebbe? Ci citano Vienna, altre città in cui ci sono addirittura percorsi, ecco, turistici da percorrere soltanto col monopattino. Andrebbe sicuramente inserito come mezzo nel sistema di trasporto complessivo. Sì? No, evidentemente non mi sente. Ah sì, ecco, mi sente. Allora, dicevo, sicuramente va inserito nel sistema di mobilità urbana e gli vanno destinate, come ecco gli esempi che ci venivano portate, delle strade dedicate dove loro possono effettivamente circolare in sicurezza per loro ma anche per gli altri. Per esempio, un altro fastidio che vediamo nelle nostre città è dove vengono lasciati questi, spesso trasformano i nostri marciapiedi in percorsi di guerra, perché c'è un monopattino buttato per terra, non posteggiato bene, lasciato lì di fretta. Questo è anche un problema di organizzazione di quelle di quei sistemi in sharing che ci sono adesso. Sì, devo dire, posso dire una cosa, Gennaro? Lei dice un'altra cosa saggia. Comincio a vedere monopattini buttati per terra. E dispiace, stringe il cuore, vedi la lucina accesa, è bene o male un attrezzo che ha un suo prezzo, un suo costo, c'è una rete di gestione che comunque dà da lavorare alcune persone, buttate in maniera sprezzante lungo la strada, nei marciapiedi. Ne ho visto uno lungo Viale Mazzini, è stato lì 3 giorni, buttato in mezzo a 2 cassonetti, con questa lucina sempre più fioca, sembrava l'agonia di un mezzo che tutto sommato ha un suo valore, perché deve essere trattato così? Non c'è forse una... Per non dire poi quelli che già cominciano a dire che li buttano nel Tevere o dentro i navigli, come facciano con le biciclette in affitto. Ecco, non c'è manco l'idea che in fondo tutto quello ha un suo valore, corrisponde al lavoro di persone, oltre a essere utile chi lo usa, ma è anche lo strumento di dignità professionale di chi gestisce il servizio. Forse serve proprio un'operazione di informazione e di formazione a vasto raggio sui monopattini. Sì, questo sicuro. Però ecco, nell'altro caso altre città già hanno cominciato a prendere dei provvedimenti. Parigi, se non sbaglio, impone che questi monopattini, quelli a noleggio, diciamo, quelli sharing, possano essere presi e rilasciati solo in alcuni punti particolari, dove c'è magari una rastrelliera, dove tu lo fermi in modo ordinato, perché effettivamente poi danno pure fastidio all'arredo urbano delle nostre città. Cioè, quante volte capita dover parcheggiare? Uno deve scendere la macchina, spostare il monopattino buttato in mezzo a un parcheggio. Esatto, anche di parcheggi disabili, che sono quelli che frequento ogni tanto, quindi è anche complicato. Lei l'ACI quindi proporrebbe di mettere delle rastrelliere in zone più frequentemente... Sì, delle stazioni fisiche dove poterlo prendere e lasciare, quindi poi io ho la mia app, vedo quello più vicino e mi reco a prenderlo, ormai la tecnologia lo consente. E questo dovrebbe essere però vincolato alla responsabilità di chi l'ha preso, perché lei si rende conto, uno chi è che fa... un pezzo a piedi per lasciare il monopattino quando il monopattino gli serve proprio perché non vuole andare a piedi. Questo è purtroppo, dovrebbe essere che se non lo lasci nella rastrelliera tu non puoi lasciarlo in giro perché ne rispondi te. Esatto, il gestore sa chi sta usando il monopattino, perché ormai con le app si sa tutto, dove si prende, quando si lascia, eccetera eccetera, quindi si può risalire a chi ha utilizzato male il monopattino. Quindi bisognerebbe un pochino restringere le norme. Adesso è stato bello, facile, l'hanno messi per strada e l'hanno usati tutti. Questo restringerebbe un po' anche la base d'utenza, è chiaro, perché il ragazzino dice è utile perché io lo lascio davanti al bar, lo butto per terra, che mi frega, poi ho fatto, sono arrivato. Se devi già lasciarlo a 50 metri perché c'è la rastrelliera, magari ci pensa due volte. Sentiamo Enrico da Varese, buongiorno. Buongiorno, salve, sono Enrico. Senta, io volevo chiedere un'informazione riguardo praticamente questi famosi monopattini, biciclette, eccetera, eccetera. Allora, partendo dalla considerazione che io frequento la strada come la frequentano loro, però con un ciclomotore qualsiasi sono soggetto a patente, bollo, assicurazione, eccetera, targa, devo fare un patentino. Cioè, qualche cosa anche per i monopattini e per le biciclette dovrebbero farlo. Lei chiede un principio di giustizia, dice devo pagare il bollo, mettere il patente. Un principio di equità più che di giustizia. Sì, no, beh, è la stessa cosa, sì, va bene. Sentiamo l'ingegnere Enrico Pagliari su questa cosa, poi chiudiamo. L'abbiamo accennato prima, probabilmente andrà introdotto un discorso di identificazione del veicolo e quindi ci sarà poi anche il discorso assicurativo di responsabilità verso terzi, ma soprattutto alla luce di quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi, una formazione per coloro che usano questi monopattini, questi mezzi che sono a tutti gli effetti quasi equiparati, non dico ai ciclomotori, ma sicuramente alle biciclette. Quindi vediamo, ingegnere, se noi avessimo facoltà di proporre, uno bisogna dire sì, il monopattino, però non è che lo prende chiunque, per prenderlo deve avere un'abilitazione, quindi frequentato almeno una formazione sul monopattino, almeno essere stato informato di quelle che sono le regole. Questo comporterebbe, diciamo, dei centri di formazione, che potrebbe essere anche una formazione online, se vogliamo evitare gli abbassamenti, che poi quando vai sul monopattino comunque tu sei registrato come utente di monopattino e quindi la tua registrazione corrisponde all'utenza che tu accendi con il noleggiatore, e poi sappiamo che le regole te le abbiamo date, quindi non puoi dire che non sapevi. Mi sembrerebbe un buon punto di partenza. Grazie Enrico Pagliari, ingegnere coordinatore aerotecnica ACI, grazie